con la casa degli uomini, va intorno alla casa degli uomini al centro, un po' la grande cosa al centro. Allora, il funerale inizia qui, anche questa è un po' una novità rispetto, alla tradizione, però magari su questo possiamo andare più velocemente, nel senso che così come avviene per le nostre culture, per il funerale, anche i nostri funerali hanno dei cambiamenti, non sono sempre identici nei tempi, e poi chi vive a Roma magari percepisce in un certo modo il funerale, vive magari dei piccoli paesi, vive ancora differenti. Autore autorevole, no? Che viene legittimata di volta in volta questa autorevolezza. Bene, il problema è che l'autorevolezza maggiore in questo caso era del maestro De Canti, anche perché, come ho detto ieri, mancava la figura che è tanto centrale quanto quella del cacique, del paigero, cioè dello sciamano, lo credo che era uno sciamano, il paigero. Che è successo? Ecco, la situazione all'interno di questo contesto inizia la parte più empirica della ricerca, quella che per certi versi è la più affascinante, anche la più dura, la più complicata, ed è delicatissima perché ci sono tutta una serie di elementi di relazione emotiva, personale, eccetera, che sono veramente di enorme complessità. Per cui diciamo, se questo è il momento in cui inizia la seconda fase del rituale, dopo che finisce per più di 30 giorni, è stato bagnato. Lui è José Carlos, vedete, il maestro De Canti, sta all'interno della capanna, della malocca della moglie morta, perché vi ho accennato ieri, la cosa appunto complicata è che la morte era la moglie del maestro De Canti, e sta svolgendo uno dei primi canti rituali in relazione a questo borsa di puliti, insieme di paglia di puliti, che avrà un ruolo importante. Quindi è il primo canto all'interno di questa capanna. Ecco, qui vedete un altro tipo, vedete anche la composizione, e vi accennavo anche ieri alla differenza tra questo tipo di case e le altre, quelle fatte dai salesiani. Vedete qui, queste sono piante di puliti, per cui ci sono dei legni che sorreggono la capanna, e questa porosità favorisce l'entrata e l'uscita dell'aria, che è fondamentale in un contesto del genere, mentre invece nelle case di mattoni o di cemento l'aria rimane chiusa e quindi si muore di caldo, quindi anche proprio dal punto di vista proprio ecologico, oltre che simbolico, qui si vive meglio rispetto agli altri posti. Ecco, questa è una fotografia che mi sono molto importante, io ho messa come una delle più significative, perché esprime questo metodo di un'antropologia della comunicazione visuale basata sulla relazione dialogica tra auto ed etero rappresentazione. Auto ed etero rappresentazione. Allora, qui vedete dove c'è ancora, si vede in parte la borsa, lui è Paulinho, vedete Paulinho sta fotografando questo iniziale canto di José Carlos. Mentre lui fotografa José Carlos, lui che è Sato, che è questo giapponesino, fotografa Paulinho e io fotografo tutti e due. Allora vedete, qui c'è una relazione, a mio avviso, di grande interesse a 3-4 soggetti che esprimono questa polifonia comunicazionale, cioè esprimono la relazione metodologica di una ricerca basata sulla auto e sulla etero rappresentazione. Nel senso che l'autorappresentazione è fondamentale, era il progetto che dicevo, su cui sono partito. Paulinho deve essere il soggetto base che riesce a interpretare, a filmare, a montare il rituale della sua propria cultura. La mia, e anche questa di Sergio, è una etero-rappresentazione. Quindi io ero partito con questa prospettiva metodologica che già ieri un po' vi avevo presentato e che già dai primissimi giorni, in verità, già dalla premessa che vi avevo dato ieri, cioè quando José Carlos mi traccia questa linea di polvere, già in questo momento io mi sento molto in crisi, tanto in crisi, sento, percepisco che sviluppare questa ricerca basata su questo modello teorico, che per me funzionava benissimo, cioè auto è una rappresentazione, andiamo lì addestrati alcuni brasiliani, io italiano e due loro, e insieme dialogicamente, polifonicamente e sincreticamente realizziamo la ricerca. Per cui, diciamo, dal punto di vista teorico era perfetto. Il problema, come già vi stavo accennando prima, è che il modello teorico, per quanto perfetto, una volta che vai sul campo, trova degli elementi così diversi, se volete anche inaspettati, che costringe, ha costretto almeno a me in questo caso, di mettere in crisi questo modello. Per cui, come vedremo poi successivamente, questa fotografia dovrebbe rappresentare nel modo, direi quasi, perfetto il metodo basato sull'auto e sulla eco rappresentazione, questo metodo, vedremo successivamente, è in crisi. Ecco, dopo i campi rituali, José Carlos esce e vedete, si dirige verso il luogo della sepoltura. Questa è l'altra immagine più centrale, è il mio corpo. Se qualcuno vuole capire perché, sono tutte numerate progressivamente, vedete 5, 5, 5, 5, però questa è la cosiddetta casa degli uomini, che sta circa al centro. Vi dicevo anche l'altra volta che la casa degli uomini è perché gli uomini appunto vanno là, in genere le donne non sono ammesse, lo sono ammesse durante questo rituale. Ecco un primo piano di questa persona seppellita. Ecco, ho messo qui, questa immagine qui si chiama Amerigo, e ho messo come prima immagine perché così voi già avete chiaro, diciamo, alcuni aspetti della cultura Mororo. La prima che voglio sottolineare è questo parico, vedete, il parico è questo diadema che lui ha in capo e che è una delle arti plumarie più interessanti, più ricche dell'intero Latin America. Sono, anche qui sono pappagalli, sono penne di pappagalli, poi vedremo, i pappagalli hanno queste penne molto lunghe, qui ci sono le piume, vedete, qui ci sono le piume, qui ci sono le penne sono molto lunghe, i Bororo, così come altre culture di questa zona, staccano le penne della coda a questi pappagalli e continuano a vivere senza penne, senza piume, senza penne, che è un'immagine abbastanza. L'altra cosa importante è vedete, il corpo è dipinto di Urukum. Urukum sono dei semi di piante brasiliane che vengono trattate in un certo modo, hanno un colore molto rosso e molto vivace, molto potente anche dal punto di vista simbolico, in genere si utilizza in questo modo, si trasforma attraverso il provvedimento di anche di far bollire queste cose in una specie di saponetta di Urukum. Questa saponetta ci si sputa sopra e sputandoci sopra si scioglie leggermente e il colore sciolto viene applicato al corpo. Per cui normalmente il tipo di pittura corporale viene fatta non dalla singola persona, ma fatta magari dalla singola persona, ma normalmente c'è sempre una seconda persona di aiuto che dirige appunto la parte del corpo che sarebbe. Ecco, qui ho Topoli Rossi, La terra dei Topoli Rossi, non so se avete sentito, un film di un regista italo argentino che si chiama Pérez, che è stato presentato a Venezia, alla mostra del cinema di Venezia, e anche sulla Repubblica, altri giornali, sono comparse delle fotografie circa uno o due mesi fa, in cui si vedevano gli uomini rossi presentati come se in pelle rossa, questa cosa qua. Era un tipo di impostazione molto giornalistica e anche direi un po' grossolana, perché è facile sapere, basta informarsi da qualsiasi antropologo, non solo, che gli uomini rossi sono le persone che vivono normalmente nelle loro culture, le persone indigene, che dipingono ritualmente il proprio corpo di l'urukum. L'urukum poi ha una funzione rituale, ma anche una funzione per così dire medica, nel senso che respinge i moschitos, e i moschitos, specialmente al tramonto, sono veramente molto molto fastidiosi. Per cui la fitoterapia è in parte anche basata su questo urukum. Ecco, quindi non vedete i domi rossi, vede rossa, prego. Cadavere veniva esumato e poi portato al fiume dove veniva coperto. Attualmente con questa pompa che sta vicino alla casa degli uomini, questa operazione viene fatta direttamente qua. Allora queste tre persone, cioè tre persone, una quarta che aveva il compito di collocare le ossa dentro la cesta e Giuseppe Carlos. Allora Giuseppe Carlos iniziò con mia grande tensione, anche con mia grande, non posso dire, coinvolgimento emotivo, cominciò a lavare il cranio della moglie, che sta qua, vedete qui, è già lavato. Io non riuscivo a fotografare durante questa operazione, e anche qui vedete gran parte delle ossa sono già tutte pulite, perché questo rituale appunto comporta, attraverso, utilizzando non solamente la pompa d'acqua, ma utilizzando, vedete, le foglie di puliti servono a pulire ciò che rimane non solamente della carne, ma anche dei tendini, della massa cerebrale, insomma tutta quella componente molle che gira intorno al nostro scheletro. Ora, quando Giuseppe Carlo iniziò a pulire il cranio, veramente in quel momento io ho pensato tutta una serie di cose, ho pensato anche in termini, se volete, egocentrici, ho pensato io rispetto alla mia donna amata, se riuscirei mai a fare una cosa di questo tipo, riuscirei a lavare il cranio della donna che amo, o che amare, che continua a amare, che è morta. Magari è, diciamo, un pensamento, una riflessione, come io ci penso 100 cose contemporaneamente, ma non è che ne pensi una, è come se i tempi si accelerano, una serie di visioni dentro dentro, quindi devo fotografare l'amore, insomma, si pensano tutta una serie di cose con un'accelerazione, diciamo, psicotemporale. E tra cui c'era questa, qui io che farei io? Io so che non, come antropologo, dovrei pensare questo, perché io ho studiato il relativismo culturale, ne ho parlato, però non funziona tutto questo relativismo, quindi sarei impiegato in qualcosa che vedi questa persona che prende il cranio e per far uscire la massa cerebrale lo scuote come fosse un maracane, poi pensavo che ci potesse essere una relazione da questo strumento rotondo del cranio, no? Quindi anche emettendo un suono, quindi anche una musica, se volete, no? Lui era il maestro legale, quindi è il massimo esponente di questa dimensione musicale, quindi pensavo tutta una serie di cose contemporaneamente, e tra cui la mia legittimità stare là, la sua affermazione che io mai vorrei fare parte della sua cultura, quindi non sapevo che fare. Dopo, quando lui ha finito, credo che non sia casuale, anzi questo non ci avevo mai pensato, veramente. Quando lui ha finito a pulire il cranio di sua moglie, in quel momento io ho deciso di fotografare. A un certo punto io ho capito che lo dovevo fare, perché il fatto di fotografare non era semplicemente come pensavo io, non era semplicemente fare il servizio fotografico d'altra chiesa, che era il massimo impegno e la massima testimonianza, anche la massima vicinanza emotiva e dolorosa che io potessi dare. Quindi era anche il mio modo empatico di essere empaticamente vicino a Giuseppe Carlos, perché non potevo dare là e dire chissà che cosa. Quindi è stata una scelta di empatia, è stata una scelta di avere o pensare di avere, non so se quello fatto bene, ma la mia legittimità era basata sul fatto che io stavo lì perché volevo non solamente testimoniare, ma proprio presentare nel modo più, posso dire, anche affettivo e anche cognitivo possibile la straordinaria potenza di questo funerale e quello che potesse significare rispetto a come noi percepiamo la morte, che nel periodo del tempo, non casualmente ve l'ho presentato all'inizio, perché la questione è anche come noi ci rapportiamo alla morte. Allora, io stando lì ho partecipato a un rituale sulla morte probabilmente il più lontano dalla mia esperienza, e un tipo di rituale che coinvolgeva direi proprio visceralmente, nel senso che era veramente la globalità della mia dimensione corporale che si relazionava a questo pulire il cranio, alcune delle ossa, non era uno stare a guardare semplicemente, perché era una cosa di cui l'intero corpo, io già mi ricordo che avevo parlato di questo, l'intero corpo, anche le orecchie, il suono, eccetera, cioè tutta una serie di dimensioni profondamente emotive spassavano la possibilità di separarmi, di allontanarmi io da. Quindi non era solamente allontanato, se il metodo è essere poroso, io era ancora più poroso del solito. E questa porosità ti prende allo stomaco, è una cosa che ti prende dentro. All'interno di questo, come dicevo, basandomi su questa mia legittimazione, ho pensato che la mia legittimazione è data perché io voglio fare una cosa per entrare dentro, per testimoniare, per presentare la straordinaria composizione rituale di come si può affrontare la morte in un modo totalmente diverso. E questa estrema differenza è un momento che può essere per ciascuno di noi, per me sicuramente, per anche per voi, un momento di riflessione su come noi ci relazioniamo appunto a questa morte. Detto questo, appunto, mi avvicino e fotografo. Quindi questa è praticamente la prima fotografia dopo questo turbamento, insomma, che ho vissuto, e come potete vedere il cranio è già bene pulito, sta qui, vedete, lucido dell'acqua insieme a gran parte dell'osso. Ecco, qui vedete, anche qui sono cose che posso raccontare, il video di Poligno ne parlerò successivamente, ma è certo che la delicatezza, è difficile di trovare parole, se affettività, amorosità, compianto, pietà, è difficile trovare la parola giusta, insomma, per questa sequenza. Vedete anche la concentrazione del viso di José Carlos, il modo delicatissimo cui prende le ossa della defunta e le colloca lui stesso all'interno della cerca. Insomma, l'immagine è di una potenza che non è possibile rimanere neutri, ecco. E nello stesso tempo, vedete, simultaneamente viene ricoperta la fossa dove stava la donna. Quindi vedete questo aspetto contemporaneo. Lo chiedo, José Carlos fa questa pulitura in quanto marito o in quanto nel suo ruolo del villaggio, insomma, maestro dei campi? Voglio dire, se non fosse il marito, sarebbe comunque lui a fare questa... Lui fa questo rituale perché si sovrappone nella sua personalità la dimensione di maestro dei campi con il marito. In questo rituale, se lui era semplicemente un maestro di campi, lo faceva in quanto maestro di campi. Quindi cioè, il marito non lo fa. È stato un caso, per questo è un funerale abbastanza unico, anche già il funerale abbastanza unico. Tra i coloro è ancora più unico, perché è molto raro che capiti il fatto che il maestro di campi sia anche il vero. Perché questa doppia coincidenza ha fatto di questo funerale una cosa abbastanza unica. Ho fatto bene a questa domanda perché ha permesso di chiarire qualche cosa che normalmente non avviene. Il marito normalmente non partecipa direttamente. Ecco, qui vedete sempre la sequenza che si ultima. Vedete, fare caso anche, mi pare che la scena sia anche ieri, vedete qui i coloro sono vestiti, diciamo, all'occidentale, diremo noi, un termine che è sbagliato, perché non è l'occidentale, sono vestiti come loro si sentono vestiti. Non è che essendo vestiti così loro sono omologati, la scena ieri è questo discorso. L'omologazione non passa come superficialmente tanti dicono perché il vestiario implica un'assimilazione alla cultura egemone, la volete chiamare, non è così semplice, molto più complesso, e credo che tra le tante cose che può comunicare questa immagine, una di queste è appunto che i coloro stanno svolgendo il loro rituale, in parte modificandolo secondo la loro tradizione, ma non sono assolutamente loro fatti. Quindi il rituale è profondamente legato alla loro filosofia della vita, alla loro cosmologia, alla loro religione, vive. Questa è la cosa importante. Ecco, questa, una volta superato, come dicevo, questo primo momento mio di difficoltà, le ossa vengono portate, nel modo che vi ho detto, dentro il baito. Vengono portate dentro e inizialmente vedete il cranio della donna viene posto su queste piume bianche e già potete vedere quello che sta accadendo. Ecco, intorno, sempre in un modo organizzato ritualmente, cioè sono sempre persone che sono legate al clan del Neoclan, inizia la metamorfosi. Inizia il processo, il rito. Ah, allora, scusate, non avevo... il rituale, in questo, dalla prima immagine che vi ho mostrato in poi, è come se la morte e la vita avessero fatto un patto di fermare il loro dominio. Nel rituale è come se la morte, pur presente, non potesse più regnare, ma anche la vita, pur presente, non fosse la vita in senso stretto. Vedete? La morte e la vita sono sospese. Il rituale ha questa straordinaria capacità di sospendere il conflitto tra la vita e la morte. E quindi è un rituale in questo momento che esprime la dimensione della liminalità, è una zona liminale, cioè la morte non è più morta, la morta non è più morta, diciamo così, ma la vita non è ancora più vita. Questa è la zona liminale, è una zona neutra, vi ricordate che ho parlato anche della minadura, non si è più il passato, ma non si è ancora nel futuro. Il rituale funebre per loro esprime in maniera quasi drammatica e perfetta questa condizione liminale. Il passato della morte, della vita, è sospeso quanto quello che sarà per accadere. Questa è zona liminale, una zona incerta, in una zona in cui le regole normali sono sospese. E questa sospensione, durante la sospensione delle regole, avviene la metamorfosi, avviene la trasformazione, si può usare anche il termine trasmutazione, a me piace anche il termine trasmutazione, avviene una trasmutazione, il cranio non è più cranio, sta diventando qualcosa di altro. Già nella prima immagine che vi ho fatto vedere, quella già pulita, il cranio sta già diventando qualcosa di altro, si sta già per alterando. Ecco, l'alterazione diventa ancora più chiara quando entra dentro la casa degli uomini e qui inizia in una maniera ancora più chiara questo processo di trasfigurazione, che è un processo anche di metamorfosi. E come vi ho detto all'ultima lezione ieri sul felicismo, la metamorfosi si intreccia con il felicismo. Ricordate, se il felicismo è quella potenzialità di rendere vivo il morto e morto il vivo, il felicismo rende vivo il morto e morto il vivo, intreccia la dimensione organica e quella inorganica, la cosa e l'essere, bene, quindi ci troviamo di fronte a qualcosa che sta esattamente in questa direzione. Per questo ieri quando vi ho detto a me può sembrare la cosa più distante questa parte della ricerca dal felicismo visuale, eppure non lo è, eppure stiamo assistendo in questo momento che proprio la potenzialità metamorfica del cranio fa di questa potenzialità un transito di un felicismo morto vivo, diciamo un body corpse, ricordate il concetto di body corpse, un corpo come il corpo vivo, il corpo come il corpo morto. Ecco, in questo momento è come se il frattino, ricordate il frattino che lega un po' del corpo, fosse il cranio. Il cranio è questo frattino che afferma questo transito da qualche cosa che non è più fisso, non è più identico a se stesso. Ricordate, quindi nel felicismo c'è una potenzialità che non accetta che anche le cose possono essere identiche a se stesse. No, quindi nel felicismo vi è anche una potenzialità di sfida a un'identità che sia sempre identica a se stessa. Allora, in questo caso, vedete, il cranio sta dentro questa logica, chiamiamola così, performativa, felicistica, perché qui l'identità del cranio è più quella. Per questo dobbiamo apprendere a pensare esattamente così. Non è più il cranio che sta in di fronte, ma anche quando Giuseppe Carlos lo dava, non è più solamente il cranio. Se noi riuscissimo a capire questo, solo noi entreremo dentro questo tipo di logica amorosa. Non è più il cranio, non è più questa dimensione totalmente e solamente materiale che ci troviamo di fronte, è qualcosa di altro, già in quel momento è qualcosa di altro, capite? E qui diventa ancora più chiaro che il cranio non è più solo il cranio, ma sta diventando qualcosa di alto. E la prima, la seconda cosa, dopo averlo appoggiato nelle prime, vedete l'urubum dà questa forte accensione vitale. Vedete, il rosso dell'urubum è un rosso cosmico, vedete così, un rosso cosmico, è un rosso solare, è come se il sole scaldasse e colorasse il cranio, da pallido com'era, lo trasformasse in qualcosa di affine al sole. Non casualmente, ieri vi dicevo che i scialanti fanno una danza del sole, e loro mettono tutti i diritti di urubum, veramente il rosso urubum è fondamentale. Credo che questa sia la saponetta, diciamo, insieme del luogo. Ecco, successivamente, vedete, vengono incollate con della resina, ecco, vedete, l'immagine qui a campo lungo è più chiara. Questa è la resina che viene presa da alberi tipo nostrini. Qui le piume vengono collocate, vedete che anche questo è interessante perché è un mix di contemporanea tradizione. La busta di plastica, ci sono le piume che vengono selezionate sulla base di certi colori, per esempio. E vedete come i ragazzi sono vestiti, come vi dicevo, sono vestiti come sarebbe vestito qualsiasi altro ragazzo a San Paolo o a Torre della Mora, no? Qualsiasi cosa. Vedete anche lui con il bastoncino sta mettendo la resina su una piuma, vedete? Perché parlano con la piuma? Quindi un'ulteriore trasmutazione. Ecco, qui vedete successivamente dopo le piume vengono messe le penne. Le penne vengono collocate giustamente proprio alla fine del cranio, del posteriore del cranio, e non so se è chiaro questo, perché allora che cosa sta accadendo? Questa trasfigurazione implica che quello che era un cranio già sta diventando, vi dicevo, qualcosa di altro. Questo altro è un arara, e l'arara è una specie di grosso pappagallo. Ecco, questo grosso pappagallo, come dicevo, da cui si tirano le penne alla coda, a volte si tirano anche lì. Perché? Allora, perché questa trasfigurazione? Che cosa sta accadendo in questo momento? Sta accadendo questo. Quindi il cranio con le piume sulla parte centrale del cranio e le penne nella parte posteriore sta attestando anche in modo figurativo che sta diventando una rara. Sta diventando una rara. Allora, la rara simbolicamente rappresenta il momento dell'infanzia, quando si nasce, c'è il rituale che vi dicevo, parlavo l'altra volta, si chiama denominazione, cioè si dà il nome, e in quel momento il bambino appena nato al bambino vengono messe le piume della rana, cioè è una rana. Nello stesso tempo la rana è un animale totemico, è un animale totemico, cioè all'interno della visione cosmica, religiosa e anche totemica, totemica vuol dire che vi è un antenato primigenio, traducete così, vi è un antenato primigenio la cui forma è una rana. Questo è un totem, tutto un antenato primigenio da cui in qualche modo derivano, se non tutti, a volte solamente una parte di alcuni clan, a volte tutti, beh, in questo caso l'intera cultura Gororo ha come matrice la canto tecnico che fonda la cultura Gororo. Che vuol dire? Adesso penso gli elementi sono più chiari anche per voi. Questo momento del rituale stabilisce una connessione tra la morta, la rara, la sua nascita, la nascita in quanto individuo, e la nascita dei coloro in quanto cultura. Quindi questo aspetto, se volete, circolare, che è parte costitutiva, simbolica del villaggio, il villaggio è circolare, vi ho detto, quindi il villaggio è circolare ed è importante per i rapporti di parentela, per i clan come sono distribuiti, ma è importante proprio anche simbolicamente, perché la morte circolarmente ristabilisce una unità tra il singolo morto, il singolo che nasce e i coloro che nascono. Queste tre differenze, la morte, la nascita e l'origine, morte, nascita e origine, origine della cultura, vengono unificate. Sono unificate. E capite ancora meglio, io spero, che anche il tempo è sospeso. Anche il tempo è annullato. In questo momento la dimensione ciclica annulla il tempo, è come se tutti i tempi proprio stessero qua. Questo è veramente lo spirito, ma penso che questo sia importante. È come se le differenze dei tempi, che sono chiarissime naturalmente per noi come per loro, il rituale riuscisse a sospendere il dominio del tempo, che poi è parente stretto sia la morte che la vita. Noi moriamo perché c'è tempo, ma viviamo anche perché c'è tempo. Ecco, questa dimensione dello scorrere, del tempo che scorre, in questo momento è annullata. È come se tutti i tempi loro tornassero, fossero presenti. Quindi anche questo è importante, vedete come la concezione del tempo non è una concezione molto universale. Le culture affrontano il tempo in modo diversi e non solo sospendere il tempo, ma anche richiamare i tempi possibili e trasformarli in presente, ecco, presentificare tutti i tempi corrotti, che è un'operazione straordinaria. Presentificare, rendere presenti tutti i tempi corrotti. Un'operazione che è di una potenza evocativa straordinaria. Ecco, tutto questo avviene anche in questo momento fondamentale. Il cranio che si sta trasformando. Ecco, qui vedete l'immagine dell'incollamento della sequenza di regolare, ma ci sono più altri. Scusate, ma qui non vedete se. Quando è ultimata. Quando si sta per ultimare questa prima fase, cioè della trasformazione del cranio in arara, in animale totemico, entrano le parenti della donna morta. Ancora la parola, voglio dire solo, questa è la sorella della donna morta. Scusi, dato che mi sembra strano la cosa della deturpazione dell'animale. strano, però fotografare le rune proprio se stanno qui. Però c'è la potenza, vedo questi pappagalli, un po' strani perché penso non possano volare, volano poco i pappagalli, ma qua volano, perché senza le pene di dietro hanno difficoltà, immagino, a indirizzare il volo, no? Quindi vivono, non vengono uccisi, stanno là. No, perché momento l'animale è totempo col totem, ma come in molte culture, tipo la vacca ferra, la vacca in India viene usata tranquillamente, nel senso che invece di mangiare la carne della vacca, in India per una serie di questioni che sono osservate in antropologia, hanno deciso di utilizzare il latte e lo stecco. Per cui è una scelta fondamentale, quindi viene usata, allora anche così come viene usato il pappagallo. Il fatto che un animale abbia una funzione sacra non vuol dire che tu lo lasci là e non lo tocchi. Anche perché queste culture convivono con questi animali e hanno un rapporto di concreta con questi animali, perché così come gli indiani utilizzano costantemente il latte e lo stecco delle vacche per farci quello che ci vuole fare, così loro utilizzano le penne per farci quello che vuole fare. Non vedetela come una cosa sacra, non è che io non te posso toccare. Poi dico che sacro è un convivere con cose sacrate, non è? Grazie di nuovo per questa domanda, perché permettetemi di chiarire. Ecco, vedete, arrivano le donne, già vedete, le donne entrano nella casa degli uomini, lei è la sorella, e lei inizia a scaticarsi. Già da qui vedete, nel film questo elemento, lei bagna, sono o denti di piranha oppure delle schegge tipo vetro, o sasso, mini particolarmente agominanti, e con questi si scarica. E ci sono anche i bambini? Sì, sì, poi vediamo, ci sono anche i bambini. E questa rituale, questa scarificazione, ecco qui vedete, qui è anche interessante perché vedete tutte le donne sono volte verso il culo, quindi non possono guardare l'operazione che viene effettuata qui dove c'è la cesta, e lei si sta scaricando, le altre stanno piangendo, ma anche le altre, lei già si è scaricata, ma lei che dà, diciamo, l'inizio in quanto la sorella. E qui vedete anche come la cesta sia anche lei già trasfigurata, vedete che anche lei ha assunto le piume al suo interno, anche le vene, vedete? Perché poi non lo so dire. Questa è un'altra immagine che a me ha dato dei grossi problemi. Lei è Leonida io la conoscevo bene, nel senso che Leonida era venuta a Roma, non so se ricordate, era venuta nella nostra facoltà, lei era stata una che mi aveva invitato a venire nel viaggio Prologo, poi nella prima volta e io ho fotografato, ieri ho fatto vedere la sua arte primaria, sta facendo delle cose veramente molto belle. Sapevo che lei non era parente della morta, per cui lei non aveva molto di scaricazione. Per motivazioni che appartengono evidentemente alla sua personalità, a un certo punto inizia a scaricarsi e anche a pregare, perché sono cose anche dolorose. Per cui io mi trovo improvvisamente di fronte a quest'altra situazione per me molto complessa, cioè vedo Leonida che piange, si scarifica e io mi emoziono e vedo che fa piangere. Per cui l'emozione mi travolge, diciamo, molto più che nel primo momento che dicevo per il testo di Giuseppe Carlos, che mi aveva emozionato ma non mi aveva provocato un pianto. Qui invece mi trovo a piangere. Allora, in questo momento, per la seconda volta, in modo più diverso, anche qui, come dicevo, i tempi sono rapidissimi, si pensano tante cose contemporaneamente, anche qui mi viene il dubbio, cioè, che cosa fare. Se, naturalmente, piangendo ho gli occhi tutti bagnati, non ho neanche, inizialmente una possibilità di guardare esattamente quello che stesse accadendo. Allora lì, anche lì decido che per me, non solamente per me, è importante fotografare. Perché in questo momento il rapporto tra le pensa a queste cose, si intrecciano. Allora, non è che ho pensato tutte cose in quel momento, ma certo, io ho pensato certamente questo, che l'emozione non doveva bloccare l'esperienza della ricerca, questo ho pensato. E per questo che l'ho fatto, questo per me mi dava una legittimità a vincere questa forte emozione, quindi l'ho fatto. L'ho fatto e come vedete, la scena per me, insomma, ancora adesso è forte, io mi dà sempre un senso di vedere. D'altronde si comincia anche oltre lo sfatto, l'odore del sudore, del fluso, si comincia a sentire anche l'odore del sangue, quindi è qualche cosa che ti prende fisicamente, anche sensorialmente. Ma anche il cranio, sono scherpinato. Ecco, qui vediamo nella parte finale il cranio, che non è di un cranio, abbiamo visto una rana che è rinchiusa dentro questa cesta. Vediamo, scusate, se la sequenza è ancora giusta, perché altrimenti... Sì. Ecco, nel frattempo, quindi qui avete il terzo lato, diciamo, della scena. Qui c'è il cesto, qui ci stanno, dietro ci sono le donne, qui c'è José Carlos, vedete, che sta costantemente cantando, ritualmente cantando. Ha già alcune piume incollate nel petto, le maracà, quindi vedete, questo è un palo centrale per il baitò, quindi ha una funzione anche questa simbolica, è come se fosse il centro del centro, loro stanno, vedete, intorno a questo centro del centro, le maracà, vi dicevo, hanno un ruolo fondamentale, una a destra è più grande, quella di sinistra è un po' più piccola, e devo dire che io, vedete, anche qui stanno registrando i suoni, qui c'è il tabacco che fumano costantemente, e dicevo, la molteplicità di suoni che vengono emessi da queste maracas, come le chiamano noi, è veramente incredibile, è come se la riflessione su questi semi che danzano all'interno di questa maraca, perché per farli funzionare bene, poi mi ha spiegato veramente, diciamo, questi contenitori, queste zucche devono essere non solo una certa larghezza, ma un certo numero di semi possono stare lì dentro, né troppo pochi né troppo tanti. E poi il bastoncino, che è anche la base, deve essere anche questo di un certo tipo, per cui quando inizia la rotazione deve far scorrere questi semi dando un tipo di timbricità. E io parlo di rotazione, che ragazzi vengono suonate non solo come rotazione, ci sono tanti tipi di rotazione, io mai non ho immaginato tutti questi suoni che escono dalle rotazioni del polso, e anche delle oscillazioni, per cui assemblare questo modello della rotazione rapida, rapidissima, lentissima, e la sinistra che è un accompagnamento, a volte vanno all'unisono, a volte vanno in accompagnato, quindi vanno fuori, non è dentro lo stesso meccanismo sonoro, per dire, no? Per cui una mano si muove non con la mano, si muove l'altra, quindi sono movimenti complessi che fanno le due mani e i due polsi, perché veramente io sono rimasto molto molto affascinato dalla complessità dei suoni delle maracas, che hanno poi tanti aspetti, poi simbolici, che affronteremo successivamente. Ecco, in questo momento, questo rispondo alla domanda che mi hai fatto, entrano gli uomini e anche gli uomini cominciano a scarificarsi. Questa è una cosa nuova, nel senso che era tantissimo tempo che gli uomini non si scarificavano. Cioè questo aspetto del rituale, gli uomini che si scarificano, era stato un po' abbandonato. Per questo è la forza emotiva di questa donna, moglie di José Carlos, figura così importante, che spinge anche queste persone a manifestare attraverso lo scorrere del sangue un dolore che non è solamente dolore, certamente è dolore, certamente è sangue, ma è anche offrire qualcosa di vita. È come se la vita venisse presentata come, diciamo così, offerta a qualche cosa che ha infranto la vita, la morte. Per questo avviene, così come avveniva in tante culture, anche nel Sud Italia, questo aspetto del pianto rituale. Solo che qui non è solo pianto rituale, lo strapparsi i capelli, è proprio sangue che deve essere emesso, per così dire, perché dentro questa visione, questa fuoriuscita di sangue, è come se ci fosse qualcosa di una vita che venisse offerta, venisse data a questo cranio arancio, che vedete qui, il sangue deve cadere più dentro. Anzi, se lo vedete meglio in questa scena, vedete come si scarica, vedete i taglietti orizzontali, i tagli sono orizzontali in questo caso. Lui è il casino, lui è il casino, e il sangue, vedete, in questo caso entra dentro la cesta con le ossa, vedete il sangue come giù, quindi vi ripeto, c'è anche un fatto sensoriale, di odore. Vedete anche qui la sovrapposizione di sangue ovunque. Questa pure è una bellissima fotografia, scusate, ma spero che questo non è preciso perché è il momento di una tristezza. Però 5 minuti. Volevo chiudere. Vedete qui è importante perché ci sono. Il primo argomento che mi viene da dire naturalmente è che José Carlos qui sta veramente molto molto piangendo. Pianto è lo sciolo. Sciolo è anche non solamente il pianto, è anche in Brasile poi sciolino, è anche un tipo di musica. Per cui quando dicevo attenzione, qui i termini sono complicati, non è un canto, possiamo dire che è un canto pianto. Che certamente una musica in cui l'emissione di questo canto pianto evoca una dimensione cosmica. Ecco, io insisto molto su questo, spero che sia chiaro. Il canto produce il cosmo, ecco. Produce il cosmo. Il cosmo viene prodotto attraverso il canto. Quindi il canto non è semplicemente un ascoltare qualche cosa. È produzione del cosmo, siamo nel rituale sospeso alla vita e alla morte e quindi il canto sta ristabilendo processualmente il cosmo che si è infranto. Ecco, questo è il pianto, lo sciolo, il canto pianto. Quindi questa è la prima dimensione. L'altro è Paulino, vedete Paulino sta filmando José Carlos. La terza, che poi mi pare lo dico, mi colpì molto, veramente questa non mi ha colpito durante la ricerca, perché io non ero assolutamente accorto che questa giovane donna avesse il cappuccio, diciamo, il cappelletto con questo peso. Quindi vedete arrivare. Vedete meglio dopo, ma vedete lo spiegazzo che è un tipo di vedete e qui per lì ci sono tante riflessioni da fare. Questo è dato che scoprendizio, è un logo veramente di uno stile, di una marca. Allora ho pensato, ma c'è una relazione tra questo cappello, questo cappuccio e rituale, oppure è desincronizzato? Che tipo di relazione c'è? Probabilmente non ho una risposta da dare. L'ultima immagine prima del break, questa è il pomino, qui c'è un altro primo piano, vedete il soffrimento di José Carlos, scrivendo di un'altra parata, scrivendo di un'altra gente di Clever, questo è un anziano, vedete con un aspetto completamente delicioso, e questo è diciamo, il primo piano. Carlos che è preso da questo, dà il senso di questa relazione profonda. parlava e dice un testo, quindi dovrebbe essere un testo, no, perché no, no, perché non sono per ecco, vorrei sapere perché ancora ancora scritto sul lato di lavoro, tu metti di se sei il 5 di esempio, se sei il 6 di esempio, faccia il martedì, faccia il martedì, faccia il martedì, tu metti in due capi, se capi sì. Bene, se capi male, ma basta. Ci sarà una campagna, io penso che dovremmo saperlo, anche cosa bisogna chiedere la gestione a me, non perché non sono specialmente qui, ma ci sarà una campagna, spero che tutti voi facciate l'appello che fanno adesso, perché è la maniera corretta per fare l'università. Si va in corso e si va là, punto, e finisce. Prima è una sorpresa, non so se c'è ancora, già io sono pronta. Ma il concetto di essere pronta, non vuol dire essere pronta, non è che la domanda risponde, insomma, il problema è che se una priorità, secondo me, l'esame consecutivo, cioè nessun problema, non è l'esame, penso, la domanda risponde. Per questo appello. Chi poi non la voglia fare, ci saranno gli appelli successivi, ma questo è per tutta l'università. Cioè, rimango sorpreso quando ci sono delle priorità, che l'ultimo appello, l'unico appello, non ci sarà mai l'unico appello per fortuna. Anzi, anche perché grazie, io sarei a favore, non dico sinceramente, di fare il corso e dopo l'appello. Lo vedo meglio, perché l'università funziona meglio, si permette il corso e si fa l'esame. Molto meglio per voi e meglio per me. Finché l'università non affronta questo nodo, per cui tu ne fai, molti studenti sono d'accordo a fare tanti appelli, è sbagliato moltiplicare gli appelli. L'unica cosa in cui mi sento solo in disaccordo. Meno appelli ci sono, meglio è, perché anzi l'appello, l'esame non deve essere visto un appello, chissà che. Sicuramente si fa l'esame. Ma anche chi non frequenta, che è sbagliato, no? L'università, cioè, io figuriamoci, io non ho frequentato, non studiamo, quindi sono il primo a essere, certo, l'università deve essere aperta anche per chi non frequenta, ma chi non frequenta può studiare durante il periodo per cui gli altri non frequentano. Qual è la differenza? Cioè, la differenza è solo un tempo, cioè, i tre mesi, o un mese, due mesi che uno frequenta, chi non frequenta studia, non va. È una logica che c'è, ma per cui lo posso fare dopo. Sì, però in questo modo sicuramente. L'università non è poi il trovo di tutti, cioè l'università non sta a giudicare, cioè l'esame è la nostra autovalutazione. Cioè, io poi posso dare 26, 30, è importante ovviamente, però in fondo è la tua autovalorizzazione che ti servirà nella tua professione di votare. Quindi l'università attualmente sono sbagliata su questo, magari ne volevo parlare più domani, cioè nel fatto che, allora questa è una domanda, però diciamo, se su questo che tu dici. Ma io penso. Ma non è una solo, perché una per solo a novembre. A novembre poi ci sarà il contrario. A novembre poi ci sarà, io non lo so, ci sarà il luglio. Avrete tanti appelli. A differenza della notte, quando si è arrivato, si dice, gli appelli avete anche infinito. Non vi mancheranno mai appelli, ma quindi state tranquilli. Il problema non è l'appello. Sì, cioè, però, gli appelli sono finiti. Prego. Se qualcuno vuole portare delle immagini lo può fare, però dovrebbe prima concordare. Perché questo è perché in passato sono stati studenti che io all'epoca facevo una parte del corso, ricordo, diciamo che erano invati, e poi ero una sorpresa di anni, mia sorella quindi se guardate delle cose che sono congrue con la ricerca, va bene, ma se ricordate la sia che c'è sposata pure il nonno del morto, non è superato il nonno. Perché non sta che c'è l'altro. Inizia una danza intorno a questo palo centrale. Qui ci sono, da queste immagini, ci sono diversi elementi interessanti, anche se volete questo aspetto che dicevo, il sudore, il sinistro, eccetera. Qui vedete la ragazza sta danzando, una ragazza molto giovane, e anche questo era una ripresa del quadro, si era persa questa dimensione delle ragazze anche che danzavano. E ci sono due cose da sottolineare. La prima, vedete, qui c'è il cartellino, perché questo panico più corto, che è adatto appunto a quello diciamo, corretto per le ragazze, ha ancora il codice di quella specie di museo, è un museo vero e proprio che sta nell'altro villaggio, nell'altra aldeia, Meruri. Quindi è come se fosse utilizzato solamente per questa volta. È interessante che con in altre immagini il cartellino è ancora presente. L'altra cosa significativa è vedere il reggiseno. Come vi dicevo, in passato le ragazze, le donne danzavano normalmente a seno nudo e anche in molte altre culture c'è questa tradizione continua tranquillamente. Tra il barocco non ho mai visto una cosa del genere, nel senso che le gestioni non è troppo, perché chiaramente l'influenza salesiana, come dicevo, è molto molto forte. Anche questo è un tratto caratteristico, diciamo, è un linguaggio del corpo molto caratteristico di tante donne, le mani a volte in questo modo, a volte pugni leggermente chiusi, vengono collocati e quasi hanno difeso del seno. Io veramente sono convinto che fatto in questo modo una sorta di protezione, di educazione, come posso dire, di rispetto, una sorta di rispetto. Qui vedete di nuovo la figlia, la donna, la cesta. Ecco, adesso, no, questo mi manca un altro differente. Sì? Ma come fanno ad attivare il rituale se se le si hanno un po' la modulazione? Come fanno ad attivare questo rituale se se le si hanno un po' la modulazione? Bravo. Allora, come vi dicevo, tra l'influenza salesiana, tra l'influenza del fazendero, l'influenza della comunicazione di massa e l'autonomia della loro cultura, c'è un conflitto, una tensione. I salesiani hanno cercato in fondo di non solamente di contrastare, ma di favorire l'abbandono di questo linguaggio, anche perché molte di queste cose in passato sono state quasi bruciate. I primi missionari all'inizio del Novecento bruciavano tutti questi oggetti rituali perché percepivano come qualcosa di superstizioso, eccetera. Attualmente non c'è più questa tradizione, non c'è neanche quella che dicevo della teologia di liberazione, che si mette vicino e non influenza, non evangelizza. Attualmente c'è una sorta di implicita coabitazione tra rituali classici, diciamo così, non cristiani, e quindi cristiani cattolici. Il risultato di questa complicata coabitazione non è dato attualmente, quindi non è neanche un conflitto esplicito qua. In altre parole, Scialante è più così, una parte di Scialante ha deciso di uscire dai salesiani, un'altra parte ha deciso di rimanere. Ma vi dicevo che i sacchi di Scialante sono più forti dal punto di vista anche culturale, economico, identitario, per esempio. I loro che sono più fragili, per tanti motivi, convivono in questa delicata e complicata relazione, da cui non si sa bene come si potrà uscire. Non è chiaro, non è dato come si potrà uscire. Qui ci sono tante riflessioni. Adesso magari non so parlare anche dopo, però certo è una dei momenti fondamentali, perché in qualche modo il funerale dovrebbe entrare all'interno del paradigma cattolico, perché quello è il funerale che implica la concezione cattolica, che viene porta per tanto al giudizio, insomma tutto quello che voi sapete benissimo, alcuni lo sanno, non lo so. All'interno di questa visione è totalmente diversa. Allora, e la morte, come potete immaginare, come la vita, la nascita, vuol dire, è parte costitutiva di una religione. Allora, qual è il risultato di tutto questo? Secondo me sarà dato dalla possibile autonomia, non è così, è proprio tutta sincerità, ma penso che abbia capito, l'autonomia che i coloro, sempre coloro, queste popolazioni possono avere di manifestare la propria religioni, ci sono del mondo, di filosofia, per esempio, e io preferirei che non ci fosse un'invasione a cultura di dice più o meno violenta sia da parte delle varie religioni che sia da parte dei Vasenderos o di altre cose. Quindi io personalmente, con delicatezza e attenzione, anche potendo dire l'altro, nel conto che è più una presa di posizione, ma immagino anche la vostra, ciascuno di voi può decidere nella sua autonomia se queste culture debbano vivere, esprimere all'interno di quella che è la propria visione del mondo, anche perché la religione, come potete immaginare, non è solamente la religione, lo sangue, è qualcosa che appartiene all'intera cultura. E se tu tagli un pezzo, non è che tagli solamente il rituale funebre, ti spezzi una concezione filosofica. Spezzando quello, metti in crisi l'intero sistema, lo metti in crisi come l'intero sistema. Capito? È difficile sopravvivere facendo semplicemente solamente la religione cattolica e poi mantenere gli altri aspetti culturali strumento di potere, di dominio, di controllo, e attualmente è già presa. Ma detto brutalmente, anche all'inizio il potere, il dominio, il controllo era visto come la salvezza. Io metto qui il salvo perché ti porto, ora, quindi ci sono le 12 regioni, io personalmente sono a favore di sviluppare l'autonomia religiosa locale di queste persone, sono contro le invasioni esterne sia a carattere religioso che a carattere economico. Sulle dimensioni, diciamo, sì, culturali e tecnologiche la vedo in modo diverso, perché lì si può affermare l'autonomia del soggetto. Si possono decidere i modi in cui si utilizza internet, il digitale, eccetera, eccetera, credo. L'altro lo perdi. Si perde con me. Prego. Veramente la cosa mi ha dato dei problemi, mi sono domandato il perché, e mi sono dato anche risposte probabilmente. Adesso lo vediamo, bravo. Tu hai capito perché c'è questa immagine? Tranquilla l'acqua, io mi sono preso una scritta e veramente una cosa schifosa. Ma come è possibile per una legge? Veramente è questa cosa qua, mi sembra una medicina. Grazie. cioè chi non c'è. Però controllo flusso aria. Che devo fare? Che lo sa? E questo? Allora dicevo, l'ufficio medico sia la funzione materiale, ma ancora più si copia, cioè protegge sia dalle palpitazioni, diciamo, cerebrali, e sia anche da quello che noi chiamiamo. Quello che noi chiamiamo malocchio, perché non è ben preciso, ma certo anche in questo punto ci sono persone che possono intaccare il potere sessuale di vita e poi facendo una serie di artifici. Allora, per evitare il duplice attacco di infezioni di persone cattive, diciamo così, l'associamento è un'ottima difesa. Solo che, come dicevo, con gli sfinter, di tante eccetera eccetera. Sono le sale. Che bello, la succedenza viene messo solamente per questo giorno e poi rimane dentro gli accessori, diciamo così, dell'adolescente, insomma, dell'adolescente. Però certo lui in questo momento è sessualmente maturo. Scusi, io non ho capito come è fatto. Come è fatto, allora, proprio materialmente. Tu per il pezzo di carta stai dicendo, ma hai fatto il gatto cielo? No, non lo so. Ah, il gatto cielo è più sottile. Sì, un'idea. No. Quando io ero ragazzo, ora le cose più belle che facevamo era giocare a calcio, cioè si prendono delle asciughe di all'epoca già di plastica e si faceva così. Vedeva la saliva, chi era più cattivo ci metteva anche una sfida con un po' di cera e quando passava una ragazza si tirava un momento di grande divertimento. Adesso se tu lo lasci più aperto, non è fatto esattamente questo, lo lasci. Se lo lasci così, vedete così, vedete, questo è una società, no? Ingegnare così fino. Se non avete capito che cosa fa, insomma, è così. Guardate anche sullo sfondo, per dare, mi sono accorto l'altro giorno a casa, sullo sfondo ci sono queste ragazze, vedete che sono ragazze vestite appunto come qualsiasi teenager, diciamo così. E vedete come attendono ed aspettano che i ragazzi siano maturi. Qui vedete sono tutti schierati per ricevere gli succedenti, vedete che Giuseppe Carlo si chiede gli succedenti qua, vedete, lo guarda. Ecco. Lui era veramente una birra, così dice, mi rubava sempre la macchina fotografica, era una persona molto simpatica. Era. Vabbè, ne vedevo un'altra volta. Ecco, vedete la fotografia che fa le ragazze tutte. Ecco, qui stanno dentro, vedete la tensione con cui guardano il quadro. Ora, nella notte, questi sono gli adolescenti della classe di età precedente a quella che avete visto, cioè loro hanno fatto il rituale qualche tempo prima, 2 o 3 anni prima, non a capire, compiono un'altra parte del rituale molto importante. Cerco di essere un po' più veloce, ma non ce la facciamo, che vorrei più veloce. E vedete anche loro i cappelletti, i fotografi, eccetera. Questa parte rituale consiste nel prendere un ramo di albero, mettere un filo e qui fare una specie di forma di pesce, presente di corpo cicatrino, proprio di pesce, che si chiama Igen, che è stato tradotto come spirito terrificico. È un termine naturalmente impreciso, ma certamente da terrore. È un essere delle acque, è un essere delle acque che risorge dalle acque e comincia a spaventare, arrivando di notte nel villaggio, le donne e i bambini che sono rinchiusi dentro le capanne. Cioè di notte non possono uscire, le donne e i bambini. Già dal tramonto si rinchiudono dentro casa e già da prima si sentono delle urla di paura, come se qualcosa stesse per arrivare. Perché? Perché questa, facendo una rotazione di questo bastone, naturalmente ruota anche la corda, ruota anche questa legge, il rumore che si produce è molto forte, tipo una cosa del genere, no? Allora, pensate che se ne vengono contemporaneamente diversi questi Aishè che ruotano, producono un senso di spavento che viene accentuato dal fango. Si prende, qui siamo vicino al fiume, si prendono manciate di fango, in parte ce lo mettono addosso, lo mettono addosso con me, e poi questo fango viene lanciato con violenza contro le case e i botti, ogni volta che c'è questo botto si produce una paura, si sentono le donne che strillano, le donne che piangono. Insomma, tutta questa grande aspetto del rituale, tornano questi esseri terrifici, sono esseri del fango, di guardare fango, lama in portoghese, e delle acque. Questa poi l'ho presa l'altro giorno, un ragazzo mi ha detto che scritto esprime. Ecco, qui vedete tutti i ragazzi della classe precedente hanno tutto il fango, lama nel corpo, stanno per attraversare il rituale e il fango è non solamente il luogo dove vive questo spirito, questo essere terrificante, ma sarà, come vedremo dopo, ve lo dico, sarà il luogo dove poi verranno collocati le ceste con il teschio, quindi l'ama questa, l'affango ha questa importante funzione simbolica, è un estene anche. Qui vedete ci sono avvicinato alla sessione rituale, qui sullo sfondo, vedete, questo rosso dello sfondo non è semplicemente del rosso tramonto. Il rosso dello sfondo è un incendio, tutto intorno al villaggio c'è un incendio. La cosa a me, dico se c'è anche io, ma poco mi fregare niente, perché ma dal punto di vista della novità, a un certo punto ci siamo sentiti tutti circondati dalle fiamme, si sentiva lo spremito delle fiamme perché era agosto, quindi un periodo di secca come si chiamava, per cui gli alberi erano secchi, mentre invece come vedete quelli sono alberi di mandria, che è un frutto buonissimo del Brasile, non originale del Brasile, che fa un certo protettivo, fa un certo protettivo del villaggio. Al di là c'è un incendio furioso che crepita, e avvolge di fumo, arriva fin dentro il villaggio, anzi ci sono delle zone del villaggio che sono viene fumo. La spiegazione di tutto questo è veramente una delle tardi di questa condizione. Allora, chi lo ha applicato sono gli sciamani. Sciamani che abitano lì vicino, hanno un villaggio lì vicino, a un centinaio di chilometri, e che affermano la loro supremazia, come dire, politica militare verso il corpo. Perché? Sta per iniziare il rituale della Forassanta Soventas, di cui vi avevo parlato. cioè io ero stato 7 anni prima, pensate che caso, 7 anni prima io ero stato nel villaggio Sciavante e avevo assistito al rituale della Santa Sorella, il vocale di orecchie. Adesso era esattamente 7 anni dopo, c'è cioè di nuovo il rituale. Allora, questo rituale, in una fase intermedia, prevede l'uccisione di una grande quantità di animali, cioè prevede una caccia rituale. Dicevo, gli sciamani sono grandi cacciatori. E siccome la selvaggina scarseggia, ma anche per altri motivi, il modo di cacciare sciamani è molto chiaro. Si incendiano una parte della savana, e il contesto che sta in savana è serrato, è savana, si incendia, il vento spinge, si deve capire la direzione del vento, quindi è tutto un sapere, perché è applicato, dove il vento tira, quindi gli animali verranno spinti in una direzione, in quella direzione ci stanno anche, diciamo, anche le masse di animali, no? È un tipo di caccia fatta con il fuoco. E tutta questa caccia, questa carne, servirà perché? Perché durante il rituale della forzante d'orecchie, per tipo 4 mesi, gli sciamante non lavorano e non vanno neanche a caccia. Per cui devono affumicare una grande quantità di carne, capite? Per cui la caccia, come si dice, caccia grossa, devono cacciare tanta, tanta carne. La affumicano e per tutti questi 4 mesi si possono svolgere il rituale senza dover lavorare. E anche questo è importante immaginare, appunto, che per 4 mesi il lavoro si ferma, è una parte di lavoro, perché si fa un rituale, durante 4 mesi, pensate a questo. Beh, allora se gli sciamani di notte corrono, accendono il fuoco, fregandosene della presenza dei coloro, e poi scappano, vuol dire perché sanno di essere. E i coloro rispetto a questo non fanno nulla. Cioè, non reagiscono, uno si immagina sia loro, reagiscono, non reagiscono, sia perché sono di meno, molti di meno, sono circa 2000, qui poi sono ancora di meno, 2000 di tutto. E sia perché, diciamo, dal punto di vista militare, non riuscirebbero a sconfiggere la potenza fisica materiale, diciamo. Per cui, da un altro lato, erano indifferenti. Io ho domandato, ma allora che succede, cosa sta qua? E loro dicevano, così cosa hanno fatto che ha provocato uno dei possibili rischi, lo dicevano molto brevemente, perché è interessante. Il giapponese, esatto, a un certo punto è andato in giro nella savana, per fortuna con Paoligno. A un certo punto il fuoco, non so se l'avete mai visto nel serrano, il fuoco corre, cioè il fuoco non è che ti avvisa, ci mette 10 minuti, ma a un certo punto ti senti totalmente circondato dal fuoco, no? Perché c'è un momento di latenza e poi spacca. Bene, Sato a un certo punto si trova quasi circondato dal fuoco e per fortuna Paoligno stava fuori da questo cerchio. Allora gli ha detto come si fa, e questo lo dirà anche a voi, se vi trovate in futuro circondati dal fuoco dovete fare così, vi dovete spogliare tutti i vostri abiti, tutti i nudi come te, vi mettete il gatto sul viso, individuate la parte del fuoco che conta e correte. Se ce la fate. Però è l'unico modo che se avete i vestiti addosso siete rovinati, cioè i vestiti prendono poco, rimangono appiccicati, li distruggono. Quindi per cui l'unico è correre senza fermarsi. Questa è la cosa. Sergio ha fatto così, Paoligno gli ha detto di farlo, ha fatto ed è arrivato a pranzo, ma cioè delle cose veramente vivo, che fumo. Bene, questo è il senso, come vedete, del tramonto, che non è il tramonto della morte. Qui c'è il momento finale del rituale, invece ci sono altri nuovi canti, i canti sono costanti, sono costanti. Questo caro fuma, io vi dico la verità, io ero curiosissimo di che tipo di fumo fosse, ma pensavo che fosse una cosa che in Brasile chiama macogna, che è più o meno una erba, insomma. E per cui l'ho fumato. Perché l'ho fatto da membro di scientifici, perché per capire il motivo di questa alterazione, però devo assicuro che proprio il tabacco segue un attimo un po' leggero. Però diciamo, l'altro aspetto è importante, perché sapere che il tabacco si origina in America, non origina in Europa, e il tabacco ha sempre significato avere un simbolo cosmico e mettere in contatto i mondi separati, che sono separati, il fumo è un tramite. Se volete il fumo, ecco, il fumo è un simbolo, il fumo unifica il mondo spirituale, chiamalo così, e il mondo individuale, materiale. Quindi il fumo ha questa potente funzione simbolica. Ed è il fumo. Ecco, qui vedete Gian Carlos, che è un momento ancora questo, lui sta in trance totale, ha incollato, vedete, sia come barba elementi di piume, elementi vegetali qua, dietro lo vedete dopo, vedete alla onza che è il giaguaro ha una grossa importanza mitica. Anzi, durante il funerale, in genere, un parente del marito, del vedovo o della vedova, doveva uccidere una onza, un giaguaro. Solo che adesso le onze non ci stanno più, insomma, sono molto difficili, quindi questa parte del rituale è stata sospesa, purtroppo. O per fortuna per le onze, non devo darsi. Quindi vedete, lui qua ha un insieme di elementi simbolici, ha l'elemento umano, naturalmente, quello vegetale, quello animale, e quindi viene accompagnato da questi soldi, da questi strumenti di controllo della Lezzo. Lui è il casino, scusate, qui è Paulino, il casino, e quindi vedete la trance. La trance in questo momento è proprio una interconnessione dei mondi separati, e quindi per ricordare tutto quello che viene esperto il feticismo, in questo momento si stabilisce un'interconnessione, diciamo una trama che connette un'ecologia della mente, la trance connette la dimensione animale, vegetale, umana e divina. Vedete? Queste quattro dimensioni, umana, vegetale, divina, vengono interconnesse dalla trance. E quindi lui sta viaggiando nei territori dell'oltre, lo sciamano sta in una fase di trance, appunto di penetrazione di altre dimensioni, nella terra dove appunto morti, vivi, divinità, animalità, tutto si confonde, e questo è caratteristico di questo momento della trance. Vedete le immagini, i canti, eccetera. Lui cammina, intanto viene preparata una fila, dice il clero che cammina. Ecco, questa è un'immagine importante, vedete, viene portato il cacique, porta quasi Gian Carlos, perché sta in Francia, non sembra una persona vicina. Anche qui vedete, gira intorno dove sono collocate le ceste, con queste cose che poi, come ho detto, andranno nella lama, nel fango. Ecco, vedete il fuoco del tramonto che squadra insieme, un famiglia che filma. Ecco, in questo momento inizia questa altra fase, quasi quella finale, non è proprio l'ultima, perché l'ultima sarà la collocazione delle ceste nel fango, nella lama, no? Ma questo sarà. Gesù Carlos brucerà tutti gli oggetti appartenuti alla morte. Ecco, qui vedete, lui ha lanciato un oggetto, un altro persona di corda. Questa è un'immagine che a me piace particolarmente, è stata più o meno casuale, perché io non sono un fotografo. Il cacique che sta facendo ruotare dai centri, vedete qui che ruota, sta quindi facendo questo suono che dicevo prima, mentre lui lancia gli oggetti della moglie, anche la malocca, anche la capanna della moglie sarà bruciata, tutto sarà bruciato. tutto sarà bruciato perché se avete seguito questa relazione un po' scherzosa, insomma, tra il fumo, che significa il fumo, diciamo così, è parte di questa trasfigurazione. Vedete, il fumo è il momento rituale della trasfigurazione, le cose non vengono distrutte, così come non si distrugge la sigaretta. Se voi fumate la sigaretta, non la state distruggendo, state rompendo le scatole che non fuma, però non state distruggendo, state inalando. Certo che il fumo attuale, lo dico sinceramente, per chi fuma non ha più niente di rituale, il fumo del miato lo sapete, non credo su questo. Quindi certo, il fumo interconnette, quindi è un momento fondamentale di interconnessione tra mondi separati. Capite? Questa è l'importanza del fumo, non è farsi una sigaretta, è un'altra cosa, così come la musica, il canto pianto, dicevo, è questo mix che riesce a interconnettere, a produrre il cosmo. Allora, nello stesso modo, questo fumo, si vede il fuoco, e questo il bruciare tutti gli oggetti di appartenenza della moglie significa elevare ogni cosa, ma noi sappiamo che queste non sono solamente cose, ormai è negativo che non sono solamente cose, ma sono parte costitutiva della soggettività della moglie. Se avete capito, avete capito tutto. Avete capito? Sono parte costitutiva della soggettività della morte. In questo senso anche questo materasso è morto, ma è un morto vivo, è un body corpse, eh? E questa trasfigurazione, essendo parte della soggettività della morte, viene appunto trasfigurata attraverso il fumo in qualcosa di altro. Gracias. il genere, nella tradizione antropologica classica, un antropologo molto famoso tra l'altro, Marshall Sands, ha cercato di tempificare quanto tempo queste popolazioni dedicano al mondo. Allora, grosso modo, se ho detto 2 ore al giorno, so che è una storia imprecisa, tanto credo che sia. Allora, vedete per esempio questo. Il tempo di lavoro medio di una persona sono 2 ore. Allora, voi vi domanderete, ma tutto il resto del tempo che fanno loro? Che fanno? Stanno nella casa degli uomini e lì si raccontano, servono, cantano, si raccontano storie, fanno dei pettegolezzi, raccontano vini, dormono, fumano. Cioè, non fanno niente. Non fanno niente. Cioè, oppure se non vanno a pescare, no, pescare è un lavoro, si fanno a fare la passeggiata. Cioè, ma poi lavoro, cioè, il tempo di lavoro che noi siamo abituati a considerare centrale, loro non ce l'hanno, per cui questo ha provocato sempre dei conflitti e continua a produrli sia con gli anziani che con il tempo. Perché se vanno a lavorare, i tempi di lavoro sono quelli, se vanno a lavorare fuori, oppure se gli anziani dicono adesso tu fai questo lavoro che ne so, 6 ore, 8 ore, ore sono. Non ce la fanno a fare 6 ore di lavoro, ma perché non ce la fanno perché sono pigri, sapete? Sono pigri, non vogliono lavorare, non hanno solo perché non sono abituati, per cui loro sono a un massimo 2 ore, poi cantano, vanno, stanno sulla macchina, poi vedono la macchina, si vedono la rete, dondolano, suonano, pensano alle donne, alle loro mente, e fanno così, questa è, perché la casa delle donne è come se fosse, adesso io, se quello direi io lo negherò, come se fosse un bar dove ci possono andare solamente uomini, oppure a volte ci possono andare le donne, le ragazze in nascosto, perché vanno a fare solamente una cosa, non è che vanno a parlare di altre cose. Quindi questo è, diciamo, su questo spazio, e che afferma naturalmente anche una forte supremazia maschile, no? Perché la casa degli uomini, ma è donna. E ha tanti altri significati anche legati alla dimensione produttività, adesso senza entrare a dettagli, insomma anche a livello la matrice politica, tutto questo. Quindi dobbiamo cercare di immaginare, appunto, che l'organizzazione della vita, del lavoro, eccetera, eccetera, non è uguale alla nostra. E un tempo molto lungo è dedicato, tra l'altro questi canti e anche l'arte del parlare, diciamo così, invece una grande. Grande apprezzamento di chi sa raccontare storie, no? Sa raccontare storie visto come un potenziale casino. Naturalmente adesso la televisione c'è una modifica di tutto questo, non è che più come se diciamo, però la centralità della casa dei uomini con lo spazio d'ore è ancora fortissima, molto molto forte. Allora, l'ultima immagine ovviamente la ho lasciata più alla ragazza, per me sono state una delle grandi liberazioni che ho accennato prima, specialmente quando lo strusciamento dei segni è fatto con una rotazione del polso lenta, in un modo che veramente tutto da prendere. Ecco, questo tipo di scivolamento rotatorio e di sonorità è messo da questi segni danzanti, che immagino un altro pure che scorrono, che scivolano. Ecco, questo è veramente un effetto, lo si vede proprio in senso anche di bellezza, ecco, di grande bellezza. E questa immagine mi permette anche di introdurre brevemente, ecco, la mia edizione finale di tutta questa storia, che è la seguente. Scusate, non la vicino. E la seguente. L'ultima notte si dorme all'aperto, con delle coperte, delle spoglie, delle coperte, per fortuna non era un po' freddo, per il periodo, insomma. E cantare. Comincia a cantare e di lago ci sono solamente, mi pare, 3 o 4 donne che fanno un tipo controcanto. Io ho contato, mi piaceva farlo sentire, questo controcanto continuo, molto bello tra l'altro, fanno le donne. E il canto però è maschile, il canto delle prove. E lui comincia a cantare e canta per diverso tempo, poi io mi accorgo che tutti dormono, io non riesco a dormire per tanti motivi, uno dei quali, la metà principale dei quali è che divento molto curioso di una cosa, cioè lui cantava, ma il canto era sempre un crescendo. Cioè, nella mia tradizione, come lo formato io, il rituale ha senso quando ci sono delle persone. No, il rituale si fa perché ci sono delle persone, il rituale unifica chi è separato. Io questo l'ho appreso, tra l'altro, proprio in antropologia, che il rituale unifica chi è separato. Chi normalmente l'India, il nemico, cioè all'interno dello stesso paese, il rituale ha questa forza, questa capacità di purificare tutto quello che è separato. Solo che non c'era nessuno. Io lo stavo tutti dormendo, lui ci dava le spalle, cantava verso un'altra direzione e cantava. Non solo cantava, ma la forza del suo canto era più cresceva, mi diceva che era un crescendo continuo. Allora io lo dobbiamo sentire a praticare e cominciò a prendere gli appunti e proprio in quel momento purtroppo la volta era finita la carica. Batteria, che aveva una penna a battere con la luce di 40 per un fastidio a me. E quindi questo continua a cantare, e poi tra l'altro se potete immaginare una scena particolarmente suggestiva, c'era una piena, c'era veramente un senso di come posso dire, anche di bellezza del momento. Era anche suggestivo, adesso sto usando gli anni un po' grossolani, cioè, però per me c'era anche una forza della natura che era presente là. Poi a un certo punto ho pensato di capire, poi confermato, del perché di questi crescendo, perché cioè non era vero che non c'è nessuno, questo io a un certo punto ho capito, non era vero che non c'è nessuno. In questo momento del rituale era come se tutti i morti, quelli che noi chiamiamo morti, tutti i morti fossero presenti. Come vi ho detto che prima che i tempi erano sospesi, ma i tempi erano sospesi perché durante il funerale vengono non solamente parenti stretti da altri villaggi, ma vengono anche tutti morti. Allora, tutti i morti che erano presenti, quindi lui aveva, non cantava solamente, che ne so, per se stesso, per le cose, cantava perché in quel momento tutti i morti loro erano presenti e in quel momento il canto, questo canto rituale, questo canto pianto, riusciva simbolicamente a unificare tutti i tempi e tutte le morti. E allora la cosa secondo me diventava ancora più potente e anche chiara. Il funerale stava nel finale. Questo aspetto rituale che vi avevo detto, questa zona liminale dove né morte né vita riescono a governare, ma c'è una sospensione, il tempo è sospeso, la morte è sospesa, la vita è sospesa, in questo momento Amerigo canta con una forza straordinaria per tutta la notte e canta perché tutti i morti che stanno lì, che sono stati nel villaggio, direi anche la morte stessa, perché a me non piace, ho pensato molto su questo, anziché usare il termine morte, ho pensato che sia più corretto usare il termine morti, morti e morti, morte come già naturale, non morte come sostantivo, astratto. Quindi è molto più individualizzata la cosa, quindi è proprio se i morti, se i maschi e femmine, presenti, da quel momento in poi, avessero il congedo, no? Il rituale sta finendo, possono tornare dove possono stare, il rituale è finito, la morte e la vita tornano, sfidandosi nella loro complessità. E quindi si sta ristabilendo la normalità di quella che è la vita. Il rituale ha funzionato, la transizione, se volete, della presenza della morte, la presenza della morte è stata trasfigurata in qualche cosa che appartiene appunto a una visione cosmica, per cui è possibile tornare a vivere. E anche noi è possibile riprendere i tempi, i ritmi di una, se volete, normalità. Il rito è finito il rito, ciò che era unificato, la morte e la vita erano unificate, si possono separare di nuovo e quindi può iniziare di nuovo quella che è la vita. Scusa? Anche lo scopo del tempo, certo. Io normalmente ho usato una metafora, che il tempo in qualche modo tutti il tempo diventa scorrere. Il tempo diventa scorrere, anche lo spazio diventa le sue dimensioni, così come la vita e la morte, in attesa di un'altra morte che riaprirà questo squilibrio tra vita e morte. So, questo è il modo in cui la morte viene affrontata. L'ho detto più volte anche rispetto al medicismo, che la morte è un problema drammatico che si cerca costantemente di risolvere. Noi dobbiamo risolvere questa morte, se non sapete, solo noi sappiamo che moriremo, no? E allora il fatto che gli esseri umani sanno di morire devono trovare una soluzione ritualmente accettabile affinché la vita continui. È casuale che proprio la morte è uno dei territori a cui intervengono le varie riflessioni filosofiche, religiose, sacrali, perché è un momento che non si trova, ma si deve ritualizzare, se volete razionalizzare, ricordate se dovrò essere nel senso di vendere, rischiare la pericolosità della morte, dovrei anche razionalizzare un po' la morte, ritornare a una certificazione, una soluzione che ci lascia permettere di riprendere la vita. Sì, sì, lo dico uguale a tutto scendere dall'età. Totalmente, veramente morto. questo è lo strato. Adesso la mente, il rituale tutto diventa chiaro, tutto diventa esplicito, tutto diventa più presente, diciamo così. Tutti sanno che i morti sono sempre lì. Tanto questo aspetto, perché il corpo è anche vivo, appartiene a tanti aspetti, a tante culture, e su questo che ognuno va a trovare le sue soluzioni, per trovare. Quando partirò forse è una fortuna, magari lui tornando, mi vedrebbe tornando dal villaggio, ci tenevo anche la mia animazione, diciamo, di personale. A un certo punto ho capito che l'autorappresentazione non poteva più essere in spettanza a Paolini, ma dopo ora io dovevo rappresentare. E la mia autorappresentazione infatti era una così di aspetti sentimentali morosi che in qualche